perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati al podcast di Effetto Giorno, il momento della giornata nel quale cerchiamo di rimettere insieme i pezzi, appunto, della giornata, delle notizie che abbiamo trattato. È una puntata, quella di oggi, secondo me, piena di spunti di riflessione, di cose interessanti che abbiamo da farvi ascoltare, a partire dall'intervista al vescovo di Hassakeh in Siria. Ne avete sentito un passaggio all'interno della diretta, vi faremo sentire l'intervista completa realizzata dalla nostra Cristina Carpini. Hassakeh si trova in Siria ed è sotto attacco, l'intera zona è sotto attacco da parte dell'ISIS, che ha rapito già a quanto pare 220 persone, intere famiglie, villaggi razziati. Ebbene, avremo il racconto del vescovo che ci dice, tra le altre cose, siamo lasciati soli, non c'è nessuno che ci aiuta. Tra gli altri spunti di riflessione sempre relativi all'ISIS abbiamo l'intervista che abbiamo realizzato in diretta, in questo caso con Monica Maggioni, che dirige Rai News 24 e che ha annunciato in un suo editoriale ieri: da oggi non trasmetteremo più i video di propaganda dell'ISIS, e le abbiamo chiesto perché. Gli altri argomenti di questa giornata comprendono ovviamente tutta la vicenda della Rai, a partire dall'offerta fatta da Mediaset su Rai Way e il seguito che c'è, ma soprattutto il nuovo passaggio, che è l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione del piano per il riassetto dei telegiornali e l'accorpamento dei telegiornali, che dovrebbe portare a risparmi, secondo Gubitosi, il direttore generale, per 100 milioni di euro. Sempre in tema di economia abbiamo il nuovo collocamento di una tranche dell'Enel, il 5,7%, e sentiremo un'analisi di un docente dell'Università di Brescia, Carlo Scarpa, e i dati dell'Istat che sono positivi nella giornata di oggi, riguardano la fiducia dei consumatori. Ampia pagina sul calcio, non tanto quello giocato quanto quello di discussione, di rischi di scontro, a partire da un'analisi sulla decisione di Tsipras di bloccare il campionato greco, una decisione sulla quale non pesano solo fattori di violenza, ma probabilmente anche fattori politici, e dall'altra parte i rischi per Rotterdam, che si prepara ad accogliere 2700 tifosi romanisti. Ho detto fin troppo, mi sembra, restano solo i contatti: effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter Simone Spezia, come sempre scrivete per suggerimenti e critiche. Iniziamo, ed iniziamo dall'identificazione dell'uomo che era noto come Jihadi John, quell'inglese apparso naturalmente col volto coperto nei video dell'ISIS, soprattutto in quel terribile video di agosto nel quale decapita un giornalista americano. Il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Si tratta di Mohamed Emwazi, ha 26 anni, è cresciuto a Londra, è originario del Kuwait ed è uno studente, un laureato in informatica, quindi una persona che ha un background, come dire, culturale solido, nonostante sia stato associato alla decapitazione di quasi tutti gli ostaggi uccisi dall'ISIS e trasmessi poi dalle televisioni, che è stato possibile vedere sul web. E Leonardo era persona nota alle forze dell'ordine, da quel che abbiamo appreso. Sì, molto nota, tanto è vero che uno dei motivi, secondo la ricostruzione diffusa, la più precisa è stata diffusa dal Washington Post, uno dei motivi per i quali lui cercava assolutamente di lasciare l'Inghilterra era questa condizione, come dire, di tra virgolette eccessiva attenzione che i servizi segreti, le MI5, gli avevano posto da tempo. Avevano cercato anche di convincerlo a spiare per conto delle autorità inglesi, questo è quello che lui avrebbe fatto sapere, motivo per il quale lui aveva cercato di lasciare Londra ripetutamente, sempre secondo la ricostruzione che è stata diffusa fino ad ora, e però questo non gli era stato possibile, a un certo punto ce gli era stato impedito, in particolare il ritorno in Kuwait. A un certo punto è però sparito e poi si sono perse le tracce fino a quando non è stato ritrovato appunto sullo scacchiere iracheno-siriano. Il vescovo di Assakeh in Siria si diceva: ogni cristiano in questa terra oggi è un progetto di martirio. Sono stati rapiti in zona dall'ISIS almeno 220 cristiani assiri. Ebbene, il vescovo, appunto, Monsignor Varduni, è stato raggiunto da Cristina Carpinelli. Da ieri mattina fino alle 9:30 della sera, quasi il numero delle famiglie che hanno sfuggito dai villaggi, ce ne sono 34 villaggi assiri, adesso tutti i villaggi sono vuoti. E abbiamo quasi 950 famiglie, 200 a Kamishliye e una centinaia tra i 3-4 città che stanno alla frontiera turca: Raslain, Amuda, Derbasiye. È una guerra, ma che non ha il nome, è una razzia dei beduini. Ci sono delle persone in ostaggio? Non sappiamo veramente il numero, perché hanno preso due villaggi interi, perché hanno preso tutti quelli che hanno dentro. Allora, tra ospiti e gente del villaggio non si sa quanti sono. Noi supponiamo tra 150 e 200 persone, non si sa. Però in mezzo ci sono donne e bambini? Quasi tutti sono donne e bambini e vecchi. Noi abbiamo più paura per le ragazze e le donne. E come si può fare? Non si può fare niente. Se l'America vuole, può fare qualcosa, ma l'America non vuole, dunque né lei né la Francia né la Turchia, quando vogliono che le cose vanno di peggio in peggio, è tutto. Abbiamo un blocco della parte della Turchia, la frontiera turca non si può passare, tutto chiuso. Abbiamo ovest, sud e est, sono Daesh che è lì. Allora credo che loro hanno fatto questa razzia sui villaggi, dove ogni villaggio c'è 30 o 40 famiglie e poi non c'è armi. Tutta la giornata del 23 e del 24, ieri americani e altri stavano girando, facendo un giro sopra la montagna e sopra la regione, ma non hanno bombardato, non hanno fatto niente. Oggi siamo al terzo giorno. Noi pensavamo, e adesso questo diventa un po' più sicuro, che gli americani non stanno facendo niente per Daesh, e vogliono soltanto che le cose perdurano finché il governo siriano cadesse, e non cadrà. Voilà, aspettiamo. E come l'ho detto, noi, ogni cristiano adesso in questa città è un progetto di martirio. È un progetto di martirio, ma non è giusto, insomma, bisognerebbe anche trovare il modo di... non so. È sicuro, ma io come vescovo non posso lasciare la città in questa regione. Sono 4 anni che sto qui, e vado di tempo in tempo perché sono obbligato di andarmene per una settimana, ma ritorno subito perché non si può lasciare la città, non si può. C'è questo fronte di discussione che mi interessa molto e sul quale mi interessa sentire la vostra opinione, e riguarda come i media devono trattare ISIS, in particolare come la televisione deve trattare ISIS. Ebbene, Rai News 24 ha preso una decisione. Ha detto: noi i video dell'ISIS non li mandiamo più in onda perché è una vera e propria propaganda, e lo faremo non solamente con i video delle decapitazioni ma anche con tutti gli altri. Ce lo ha spiegato bene la persona che dirige Rai News 24, che è Monica Maggioni. Perché ci siamo resi conto che, insomma, in una prima fase è molto importante far vedere alcune cose, far vedere il grado di crudeltà di questo gruppo di terroristi, perché molto spesso ci troviamo a teorizzare su chi sono e cosa fanno e poi non ci rendiamo conto qual è il grado di pietrezza e di crudeltà che possono raggiungere. Dopodiché però anche nella comunicazione dell'ISIS, mese dopo mese, è cambiato qualcosa di significativo. Hanno iniziato ad arrivare questi video che sembrano fatti da registi occidentali, c'è una propaganda costruita ad arte, e allora diventa fondamentale sottrarsi a questo meccanismo di propaganda. E guarda, non mi riferisco solo ai video più cruenti, perché poi nel dibattito di queste ore in molti dicono: ah, ma già non facevamo vedere i video cruenti, eccetera. Sì, ma il tema non è solo quello di non far vedere la violenza, c'è anche tutto un altro livello di propaganda che l'ISIS fa passare sistematicamente, e pensa ai video di John Cantley, del prigioniero che è diventato il loro sì. reporter, pensa a certi video fatti anche da Vice, dove all'interno c'erano dei reporter embedded con l'ISIS che si sono presi la narrativa dell'ISIS come se fosse, come dire, narrativa oggettiva tra virgolette, che fanno parte della propaganda, e quindi sì. il tema è di sottrarsi a tutto questo sistema. Allora, ci scrive un ascoltatore: fate anche voi così, nessuno spazio mediatico all'ISIS, ma in realtà non è questo il punto, perché noi facciamo radio e quindi noi le immagini non le trasmettiamo. E Monica, il punto sono proprio le immagini di propaganda. Sì, le immagini sono un pezzo fondamentale, la regia visiva di quello che loro stanno facendo è centrale, e quindi è chiaro che soprattutto chi fa televisione, ma noi la scelta l'abbiamo fatta, ed è il pezzo che forse costa ancora di più se possibile anche per il sito, perché rainews.it, su rainews.it non si troverà più niente di tutto questo materiale che, ripeto, non solo quello violento ma anche quello di pura propaganda. Le immagini per loro sono chiave perché poi te lo dicono anche i grandi esperti: a cosa servono? A terrorizzare la loro gente, a terrorizzare anche noi occidentali, ma contemporaneamente servono anche a reclutare nuovi fanatici che decidono di andare ad associarsi a questo, come dire, a questa pazzia, a questa follia collettiva. Monica, un'ultima domanda alla quale non ti puoi sottrarre, per così dire, e riguarda le decisioni, tutt'altro argomento, del vostro consiglio di amministrazione, che oggi ha dato il via libera al piano del direttore generale Gubitosi, e che riguarda anche voi naturalmente, perché si prevedono una serie di accorpamenti: TG1, TG2 e Rai Parlamento insieme per una prima newsroom, e TG3, Rai News 24 e TGR per la seconda newsroom. Vorrei un tuo giudizio. Innanzitutto penso che io oggi proprio dovrei non giudicare assolutamente niente, perché sono all'interno dell'azienda e come tale dovrei fermarmi a non giudicare. Dico però una semplice cosa: che qualsiasi opinione si abbia su questa riforma, l'unica certezza, ed è una cosa che vado ribadendo da tempo, è che la RAI così com'è non può continuare ad andare avanti. Questa è la riforma proposta, questa è la riforma che il mio consiglio di amministrazione ha approvato, io faccio il dirigente di questa azienda e vedrò come andremo avanti lungo questo percorso. E l'argomento ce l'ha già introdotto Monica Maggioni, è quello della RAI. Il prossimo argomento, Alessandra Schepisi ci aggiorna sugli esiti del Consiglio d'amministrazione. Diamo subito la notizia che il CDA della RAI ha approvato il piano Gubitosi sul riordino dei TG, che dovrebbe consentire al regime risparmi tra gli 80 e 100 milioni di euro. A favore hanno votato 5 consiglieri su 8, e all'esame del Consiglio c'è anche l'informativa sull'offerta di Towers per Rai Way, mentre alle 17 su questo proprio si riunisce il CDA straordinario di Rai Way, convocato d'urgenza. E l'offerta pubblica di acquisto per le torri di trasmissione della RAI da parte di Mediaset continua a far discutere. L'OPA lanciata dai Towers, la società controllata dalla famiglia Berlusconi, come sappiamo, è stata però stoppata dal governo, che ieri con una nota ha ricordato: il 51% del segnale RAI deve restare pubblico perché la rete di trasmissione ha valore strategico, mentre l'interesse di Mediaset è per almeno i 2/3. Così prevede un decreto. Il 51% è previsto da un decreto della Presidenza del Consiglio varato a settembre. E sul fronte politico però rimangono forti le critiche, soprattutto di Selle del Movimento 5 Stelle, da sempre contrari alla privatizzazione di Rai Way. Secondo i Grillini la vicenda rappresenterebbe l'altra faccia del patto del Nazareno, Grillini che hanno già chiesto l'intervento dell'antitrust, mentre secondo Forza Italia si vuole solo impedire a Berlusconi di fare l'imprenditore. A te Simone. La vendita di Rai Way, abbiamo detto, c'è anche la questione di Enel, perché il Ministero del Tesoro ha completato la cessione di una quota, la quinta operazione dal 99. Il titolo ha il segno meno, il prezzo era più o meno quello atteso, l'incasso è di oltre 2 miliardi di euro e il servizio. Una flessione era in conto ma senza eccessivi contraccolpi e così è stato, apertura in calo per il titolo Enel e poi recupero. Via 20 settembre ha dato via libera alla cessione del 5,74% della società ieri pomeriggio. L'annuncio è stato pubblicato sul sito prima di sera. 540 milioni di azioni offerte a investitori internazionali, americani ed europei, a oltre 4 euro per azione, in linea con la chiusura del titolo nella seduta di mercoledì. Lo Stato porta a casa un guadagno di circa 2,2 miliardi e scende al 25,5% del capitale. Procedura accelerata per la raccolta degli ordini ricevuti dalle banche di investimento scelte per l'allocazione della quota. Le banche in questione sono 4 e sono quelle che hanno offerto il prezzo maggiore nel caso in cui avessero dovuto farsi carico dell'invenduto. Una operazione su cui però il Tesoro sembra aver scommesso a colpo sicuro e lo dimostra l'aver fissato il prezzo offrendo uno sconto quasi nullo. Il regolamento dell'operazione avverrà lunedì prossimo. A quel punto ci sarà spazio per aprire i capitoli, ben più complessi, di Poste e Ferrovie. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La domanda che ci si fa sempre in questi casi: Enel a questo punto è contendibile? Valeria De Rosa lo ha chiesto a Carlo Scarpa, che è docente di economia politica all'Università di Brescia, e gli ha fatto anche una domanda sulle prossime privatizzazioni. In teoria sì. In pratica credo che chiunque sappia che entrando in Enel comunque ti trovi come partner il governo italiano, che ha una stake molto importante, che ha dei poteri anche formali di bloccare certe operazioni, per cui non vedo dietro l'angolo un'acquisizione ostile. A questo punto si aprono i capitoli Poste e Ferrovie. Ritiene che ci sarà la stessa facilità di allocare quote sul mercato? No. Poste è una sfida molto, molto diversa, perché Poste è un oggetto ancora piuttosto misterioso. La commistione tra l'anima bancaria, l'anima assicurativa e quella puramente postale non consente agli investitori di capire bene dove si perde del denaro, dove questo denaro invece viene guadagnato e in quale misura. Ferrovie si sta preparando, credo che la sua articolazione per società già consenta qualche ottimismo maggiore. Deve essere chiarito un nodo importante per Ferrovie dello Stato, cioè il ruolo dei contributi pubblici. Non c'è solo questo nelle notizie economiche di oggi, c'è anche una buona notizia, quella che arriva dalla fiducia dei consumatori e delle imprese. Sono dati veramente ottimi. Sentiamo il servizio. La fiducia dei consumatori a febbraio mette a segno un balzo con l'indice che misura l'ottimismo, che sale a 110,9 punti dai 104,4 di gennaio, al top dal giugno 2002, vale a dire da quasi 13 anni. Lo rileva l'Istat evidenziando i principali eventi accaduti nel periodo in esame, dall'elezione del Presidente della Repubblica ai dati positivi sull'occupazione. Buone notizie anche per quanto riguarda la fiducia delle imprese, che a febbraio sale ai massimi dal giugno 2011, con l'indice a 94,9 punti dai 91,6 di gennaio. In questo caso la rilevazione potrebbe aver risentito dell'effetto annuncio del quantitative easing, l'allentamento monetario deciso dalla Banca Centrale Europea a fine gennaio. Il 2014 però passerà agli archivi come un altro anno nero per il commercio al dettaglio, con le vendite che scendono dell'1,2%. Si tratta del quarto anno consecutivo che chiude in calo, anche se rispetto al 2013 la caduta rallenta. E a soffrire sono tutti i settori, sia l'alimentare che il resto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio per parlare, prima ancora delle partite di questa sera, per parlare di calcio e violenza. Il governo greco, è una notizia che ormai sapete, ha deciso di bloccare il campionato dopo gli ultimi scontri tra i tifosi del Panathinaikos e dell'Olympiakos. E su questo tema è intervenuto anche il capitano della Roma, Francesco Totti. Sentiamo la sua voce. Io mi diverto sul campo. Le immagini che sono esterne penso che è un'immagine bruttissima per tutti. Per me dovrebbero fare come hanno fatto qui in Grecia, prendere dei seri provvedimenti, oppure multare o fermare le società di questi tifosi che fanno questi casini. Però purtroppo in Italia non succederà mai una cosa del genere. Ma è veramente solo la violenza al centro della decisione di Alexis Tsipras? L'analisi di Dario Ricci. Un calcio chiuso per violenza. Quasi un'abitudine ad Atene e dintorni. Sì, perché quella decisa ieri dalla Federcalcio ellenica su pressione del governo Tsipras è la terza sospensione della stagione calcistica in Grecia quest'anno. Nel settembre scorso le partite erano state fermate per una settimana dopo la morte di un tifoso nel corso di violenti scontri durante una partita della terza divisione. A novembre poi era stata decisa una nuova sospensione dopo l'aggressione ai danni del vice direttore della commissione centrale arbitrale. Ora il nuovo stop dopo gli incidenti di domenica scorsa e la rissa nell'ultima riunione della Lega Calcio locale. Si ferma tutto il calcio di ogni categoria a tempo illimitato. Servono nuove regole antiviolenza, ma serve anche non dare a quell'Europa che è controparte nella trattativa per la ristrutturazione del debito l'immagine di un paese fuori controllo. E serve anche sopire i bollori di curve da sempre incandescenti, che possono diventare clave nelle mani dell'estremismo politico, ma anche di quei magnati che controllano i club e che ora potrebbero pagare il conto delle draconiane misure che l'esecutivo Tsipras sta per varare. Intanto si attende per questa sera la partita tra Feyenoord e Roma e si attende ovviamente con una certa ansia, soprattutto da parte olandese. Sono 2700 tifosi romanisti in arrivo. La cronaca proprio da Rotterdam di Pierluigi Pardo. Questo direi che l'unico rischio è il vento, però è ovviamente molto molto presto, sì, per illudersi, che insomma le ore calde sono quelle che stanno per arrivare. La situazione in città in questo momento è tranquilla, ci sono le forze dell'ordine che si stanno schierando dalle parti dello stadio, stanno cominciando a chiudere le vie di accesso alla partita, c'è una fan zone perfettamente funzionante che forse, se stasera, come ci auguriamo, tutto si verrà liscio, forse potrebbe diventare veramente l'idea da esportare per il futuro, perché la fan zone è lontana dal centro cittadino, al di là del fatto che, con tutto rispetto per Rotterdam, qui la barcaccia non c'è, quindi insomma non è il museo a cielo aperto ovviamente che può essere Roma o Firenze, però insomma, c'è questa zona nella quale i pochi fin qui tifosi della Roma arrivati stanno vivendo tranquillamente, trascorrendo queste ore in assoluta serenità con il presidio discreto delle forze dell'ordine. C'è questo treno che parte alle 17.50 da Amsterdam, che è il treno diciamo speciale consigliato per i tifosi della Roma, che arriverà proprio sotto la tribuna centrale, ed è lo stesso treno che ripartirà alle ore 23.50. Grandi rischi da quel punto di vista non dovrebbero esserci. Il rischio vero può essere chiaramente i classici cani sciolti. Esattamente quello che ti volevo chiedere, Pier. Il rischio là sono i tifosi che arrivano con mezzi propri, come del resto è successo a Roma, no? Magari senza biglietto, e che vengono sostanzialmente solo per fare botte con i tifosi del Feyenoord. Assolutamente sì, perché dal punto di vista del tifo organizzato, diciamo del grosso dei tifosi della Roma, tra l'altro sappiamo che ci sono gli agenti della Digos che stanno seguendo e monitorando e che hanno viaggiato fin qui in Olanda, grossi rischi non ci sono. Sicuramente, così come non dovrebbero esserci grandi rischi di provocazioni da parte dei tifosi olandesi. E il problema chiaramente richiede nell'impossibilità di prevenire ogni possibile incontro fra dei gruppetti appunto di cani sciolti tifosi da una parte o dall'altra. E infine siamo al calcio giocato. Stasera si gioca appunto Feyenoord-Roma, ma ci sono anche molte altre partite. Il riassunto di quello che può succedere questa sera con Giovanni Capuano. Parliamo di un giovedì che è speciale per noi, perché inseguiamo questo pokerissimo in Europa League 5 su 5, che è un'impresa che non c'è mai riuscita, non solo nell'epoca recente, ma anche quando il nostro calcio dominava in Europa. In realtà sarebbe un primato assoluto o quasi, perché bisogna tornare indietro a 79-80 per trovare 5 tedesche, allora Germania Ovest, capaci di arrivare addirittura tutte e 5 nei quarti di finale e poi 4 in semifinale e evidentemente una a vincere. Noi siamo un passo e mezzo indietro, perché questa sera si gioca l'accesso agli ottavi di finale. C'è il Napoli che è già qualificato, perché l'andata ha vinto 4-0 in Turchia e dovrebbe praticamente suicidarsi per non completare il compito. E poi c'è l'Inter che è al favore del pronostico, perché parte dal 3-3 di Glasgow e gioca per 2 risultati su 3, che è la stessa opzione che ha la Fiorentina, che ospita il Tottenham. Qui però la differenza è che la levatura dell'avversario è nettamente superiore a quella degli scozzesi, quindi partita apertissima. E poi c'è Neto, questo portiere che è fuori rosa da 2 mesi per perché a fine stagione se ne andrà alla Juventus, odiatissima dai tifosi viola, ma che questa sera deve giocare perché non c'è nessun altro, tutti gli altri sono infortunati. Le altre partite, quelle altre che contano, sono sicuramente quella della Roma, poi parlerai delle questioni di ordine pubblico. Roma che rischia tra questa sera e lunedì di chiudere la stagione senza niente in mano, ed è paradossale pensando a quelle che erano le prospettive. E poi c'è il Toro, e questa è la vera impresa, perché in 8 precedenti a Bilbao le squadre italiane hanno incassato un pareggio e 7 sconfitte, e questa sera il Torino deve vincere dopo il 2-2 dell'andata. Del Napoli abbiamo già detto, insomma ci sono grosse possibilità di fare bene, però quel 5 su 5 sarebbe davvero un'impresa. Prima di chiudere, altre due storie. La prima correlata alla stretta cronaca, un'indagine che è stata riaperta adesso e che riguarda Marco Biagi, l'uomo ucciso dalle Brigate Rosse nel 2002. Ebbene, è stata aperta una nuova indagine, e questa indagine riguarda Claudio Scajola e l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. E il tema è sempre quello, la mancata attribuzione, o meglio la revoca della scorta. L'analisi di Daniele Biacchessi. Marino Orlandi lo aveva raccontato già davanti ai magistrati bolognesi che indagavano sulla mancata protezione dello Stato a suo marito Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse alle 20.07 del 19 marzo 2002. Se Marco avesse avuto la scorta, nessuno l'avrebbe potuto aspettare sotto casa con un marsupio a tracolla che conteneva una pistola. Proprio così. Ed è tanto vero ciò che affermava allora la signora Orlandi che la brigatista pentita Cinzia Banelli lo ha poi confermato in un verbale di interrogatorio. Ha detto: se Biagi avesse avuto la scorta non l'avremmo mai potuto uccidere perché non eravamo abituati ad un conflitto armato. Chi potevano allora essere i responsabili della mancata scorta a Biagi? Lo abbiamo chiesto più volte, se lo sono chiesti anche i magistrati, e oggi ci sono state le prime risposte. Infatti Claudio Scajola, Gianni De Gennaro, a quel tempo rispettivamente ministro dell'interno, capo della polizia, sono indagati nell'inchiesta bis sulla revoca della scorta. Non sappiamo dove potrà andare a finire l'investigazione. Sappiamo però che una famiglia bolognese attendeva il ritorno di un tranquillo professore, un giuslavorista stimato, cattolico, socialista, consulente del Ministero del Welfare, cuscinetto tra parti sociali e governo, e quell'uomo a casa non è mai più rientrato. Forse per loro, in questi lunghi anni di attesa, la verità e la giustizia rappresentano il minimo che uno Stato possa offrire ad un suo servitore che non ha saputo proteggere. E chiudiamo con una vicenda curiosa che arriva dalla Lombardia e riguarda una compagnia di treni di questa zona che serve molti pendolari, Trenord. Si è scoperto che all'interno del contratto dei ferrovieri c'è una gabola che permetterebbe, in caso di ritardo del treno, allo scattare magari del minuto di lavoro in più, di ottenere una maggiorazione, il che naturalmente può stimolare comportamenti scorretti e forse li stimola. Abbiamo intervistato Adriano Coscia, che è segretario generale dell'ORSA, che è uno dei sindacati più rappresentativi proprio per la Lombardia. Assolutamente, questo è uno dei motivi per cui noi nel 2012 non abbiamo sottoscritto quel contratto. Prima di dirci questo, mi spiega come funziona esattamente il meccanismo? Allora, funziona che l'articolo 54 di questo contratto stabilisce che al raggiungimento di una determinata ora di condotta viene attribuito un bonus. Esempio, da 179 a 180 minuti il macchinista guadagna per solo quel minuto 15 euro, così avviene dal terza alla quarta ora ne guadagna 20, dalla quarta alla quinta ora ne guadagna 25, solo per quel salto del minuto dall'ora frazionata all'ora intera il macchinista guadagna un qualcosa in più in modo significativo. E quindi il macchinista ha tutto l'interesse nella sostanza a ritardare il treno. Ora io non è così, scusi se la interrompo, i macchinisti sono professionali e sono altamente professionalizzati rispetto al lavoro che svolgono. Dopo non escludo che su 1200 macchinisti ci sia qualche macchinista che usufruisce di queste storture contrattuali per un vantaggio economico, ma questo insomma sta nelle cose. Sta nelle cose, dice lei, ma questo è un contratto da cambiare, Coscia. Assolutamente, noi qua siamo l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel personale di macchina e nel personale viaggianti. Questo è un contratto non voluto dai lavoratori, a cui non è stato permesso di esprimere il proprio giudizio, ma per diversi modi. Uno dei principali è questo: un sistema premiante economico a cottimo, perché più si lavora più si guadagna, e si guadagna attraverso dei bonus a scalini, cioè un contratto che non funziona nel servizio ferroviario. E come dovrebbe essere impostato, giusto per aiutarci a capire, perché come dire, per uno che fa un lavoro normale, intendo non il macchinista, non il ferroviere, il fatto di se lavoro di più mi dai più soldi è abbastanza normale, mentre invece come dovrebbe funzionare da voi? Questo qui non stiamo parlando di ore straordinarie, qui stiamo parlando di un'indennità che il contratto e tutti i contratti di lavoro del settore ferroviario lo riconoscono, quindi riconoscono un'indennità per la professionalità del macchinista che sta alla guida, quindi rispetto ai rischi che corre questo macchinista e rispetto ai percorsi formativi, alle idoneità e alle abilitazioni, viene riconosciuto un X alla guida, sì. Ma questo X non può variare e non può essere premiante, perché deve essere costante dalla prima all'ultima ora. Se vogliamo premiare, premiamo il periodo notturno in cui il dipendente ha maggiore stress e deve richiedere maggiore attenzione. Che diciamo alle centinaia di migliaia di pendolari di Trenorda? Tra l'altro, insomma, un po' all'ascolto ce l'avremo pure. Noi innanzitutto dobbiamo scusarci con i pendolari di Trenord, perché abbiamo i pendolari di Trenord hanno subito 13 scioperi che però vanno nel rivendicare queste motivazioni di un contratto sbagliato. Dopodiché noi prendiamo atto che il nuovo amministratore delegato ha detto che vuole cambiare questo contratto. Noi, come i suoi ascoltatori potranno riscontrare, sono 4 mesi che non abbiamo scioperato, perché il nuovo amministratore delegato ci ha fatto queste garanzie, ci ha dato queste promesse. Noi siamo disponibili a sottoscrivere il contratto previa quelle modifiche che noi riteniamo opportuno, sì, e che abbiamo sempre tra queste modifiche, perché ci scrive un ascoltatore via SMS, ci potrebbe essere, dice, come nel contratto dei piloti, pagare sul volato stimato a preventivo del mese e non a consuntivo. Quello potrebbe essere un'indennità fissa, come secondo noi invece va premiato il macchinista che recupera, anche se in modo difficile, perché c'è un sistema, sì, di circolazione che non permette di aumentare le velocità, però il macchinista, diciamo così, professionale va, e che recupera dei minuti, va in qualche modo riconosciuto questo maggiore impegno. Ed è veramente tutto per Effetto Giorno. Il ringraziamento oggi va a Valeria Bernardi per la parte tecnica e come sempre a tutti voi per l'ascolto, per aver scaricato la trasmissione. La raccomandazione come sempre è quella di iscriversi per avere l'aggiornamento costante, lo potete fare tramite il vostro browser o tramite i vostri smartphone, in maniera che vi arrivi una piccola notifica che non disturba per niente, semplicemente vi dice: guardate, è appena arrivata la nuova puntata, il nuovo podcast di Effetto Giorno. Critiche, riflessioni, tutto quello che volete. Effetto Giorno, @radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Non mi resta che augurarvi una buona giornata. Ci si sente domani alle 13:00.